Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan non scorse nessuno, né sul suo percorso né lungo la strada che ora abbracciava con lo sguardo. Risalì per Rue de Seine e la Croix Rouge, ma niente di niente. Tuttavia la corsa gli giovò, nel senso che via via che il sudore gli inondava la fronte, l'impeto gli sbolliva. Cominciò allora a riflettere sugli avvenimenti accadutigli, che erano numerosi e infausti. Erano appena le 11 della mattina e già aveva trovato il modo di inimicarsi Monsieur de Tréville, il quale certo doveva aver trovato piuttosto villana la maniera con cui D'Artagnan l'aveva piantato in asso. Inoltre s'era procurato due duelli coi fiocchi, con due uomini capaci ognuno di ammazzare tre D'Artagnan, insomma con due moschettieri, ossia con due di quegli esseri per i quali provava una tale stima da collocarli nella mente e nel cuore al di sopra di tutti gli altri uomini. Era un brutto impiccio. Ah, che maledetto guascone! Farei dello spirito anche se mi trovassi sulla graticola. Su, D'Artagnan, amico mio, continuò parlando a se stesso con tutto il garbo che credeva doversi, se la scampi, il che è improbabile, in futuro dovrai essere di una cortesia perfetta. D'ora in poi dovrai essere ammirato, citato a modello. Essere premuroso e cortese non vuol dire essere vile. Guarda Aramis. È la dolcezza, è la grazia personificata. Ebbene, qualcuno si è mai sognato di dire che Aramis fosse un vile? No, di certo. Ed ora innanzi voglio prenderlo a modello. Ah, eccolo qui. Sempre camminando e continuando il suo monologo, D'Artagnan era giunto a pochi passi dal palazzo de Guillon, davanti al quale aveva scorto Aramis che chiacchierava allegramente con tre gentiluomini delle guardie del re. Dal canto suo questi scorse D'Artagnan, ma siccome non dimenticava che proprio in presenza di quel giovane Monsieur de Tréville era andato su tutte le furie la mattina, finse di non vederlo. D'Artagnan, al contrario, tutto infervorato nei suoi progetti di conciliazione, di cortesia, si accostò ai quattro giovanotti rivolgendo loro un ampio saluto, accompagnato dal più grazioso dei sorrisi. Aramis inchinò lievemente il capo, ma non sorrise. D'Artagnan non era così sciocco da non accorgersi che era di troppo. Cercava quindi un modo per allontanarsi il meno goffamente possibile quando notò che Aramis aveva lasciato cadere il fazzoletto e, certo per disattenzione, vi aveva messo il piede sopra. Gli parve giunto il momento di riparare la sua scorrettezza. Si chinò e con l'aria più garbata che poté strappò il fazzoletto di sotto al piede del moschettiere, per quanto costui facesse ogni sforzo per trattenerlo, e nel consegnarglielo gli disse: «Signore, ecco un fazzoletto che, credo, vi dispiacerebbe perdere». Difatti era un fazzoletto splendidamente ricamato con una corona e uno stemma in uno degli angoli. Aramis avvampò e strappò più che prendere il fazzoletto dalle mani del guascone. «Ah, esclamò una delle guardie. Dirai ancora, discreto Aramis, che non sei in buoni rapporti con Madame de Bois Tracy, quando questa graziosa dama è tanto gentile da prestarti i suoi fazzoletti?» Aramis fulminò D'Artagnan con una di quelle occhiate che fanno capire a un uomo che si è fatto un nemico mortale. Poi, riprendendo la sua aria melliflua, disse: «Vi ingannate, signori, questo fazzoletto non è mio. Non so perché al signore sia venuto in mente di restituirlo a me invece che a uno di voi. La prova di quanto vi dico è che ho il mio in tasca». «Il fatto è», interloquì timidamente D'Artagnan, «che io non ho veduto il fazzoletto uscire dalla tasca di Monsieur Aramis. Ci teneva sul piede, ecco tutto, e ho pensato che se ci aveva sul piede il fazzoletto era suo. «Vi siete sbagliato, caro signore», rispose freddamente Aramis. Dopo un momento la conversazione si esaurì e le tre guardie e il moschettiere, dopo essersi stretta cordialmente la mano, se ne andarono, Aramis dalla sua parte e gli altri dalla loro. «Ecco il momento di fare la pace con questo gentiluomo», disse tra sé D'Artagnan, e con questa disposizione d'animo, accostandosi ad Aramis, che si allontanava senza più badargli, gli disse: «Signore, mi scuserete, spero». «Ah, signore», l'interruppe Aramis, «consentitemi di farvi osservare che in tale circostanza non avete agito da gentiluomo». «Cosa, signore?» esclamò D'Artagnan. «Voi supponete, suppongo, signore, che non siate uno stupido e che sappiate benissimo, anche venendo dalla Guascogna, che non si cammina senza ragione sui fazzoletti. Diavolo, Parigi non è lastricata di Batista». «Signore, avete torto a cercare di umiliarmi», rispose D'Artagnan, in cui l'indole litigiosa incominciava a parlare più forte delle risoluzioni pacifiche. «Sono guascone, è vero, e già che lo sapete, non avrò bisogno di dirvi che i guasconi hanno poca pazienza, di modo che quando si sono scusati una volta, fosse anche di una sciocchezza, sono convinti di aver già fatto molto di più del necessario». Rispose Aramis: «Signore, non lo sto dicendo per attaccar briga con voi. Grazie al cielo non sono uno spadaccino, ed essendo un moschettiere ad interim, mi batto proprio se ci sono costretto, e sempre molto malvolentieri. Ma questa volta la cosa è grave, perché da voi è stata compromessa una dama». «Volete dire da noi?» esclamò D'Artagnan. «Perché avete commesso la sbadataggine di restituirmi il fazzoletto? Perché avete commesso quella di lasciarlo cadere?» «Ho detto e ripeto, signore, che questo fazzoletto non è uscito dalla mia tasca». «Bene, signore, avete mentito due volte, perché l'ho veduto io uscir fuori». «Ah! La mettete su questo tono, signor Guascone? Allora vi insegnerò a vivere e io vi rimanderò a leggere il vostro breviario, signor abate. Fuori la spada, per favore, e subito!» «No, per favore, amico caro, non qui perlomeno. Non vedete che siamo di fronte al palazzo de Guillon, che brulica di creature del cardinale? Chi mi dice che non sia Sua Eminenza ad avervi incaricato di procurargli la mia testa? Orbene, ci tengo in modo ridicolo alla mia testa, visto che sembra piuttosto proporzionata alle mie spalle, perciò voglio uccidervi, ma uccidervi senza chiasso, in un luogo chiuso e riparato, laddove non possiate vantarvi della vostra morte con nessuno. Accetto. Ma non fateci troppo assegnamento e prendetevi il fazzoletto, che vi appartenga o no, forse avrete l'occasione di adoperarlo». «Il signore è guascone?» «Sì, il signore non rimanda un appuntamento per prudenza». «Signore, la prudenza è una virtù piuttosto inutile ai moschettieri, lo so, ma indispensabile agli ecclesiastici. E poiché io sono moschettiere solo provvisoriamente, ad interim, ci tengo a restare prudente. Alle 2 avrò l'onore di aspettarvi al palazzo di Monsieur de Tréville. Là vi indicherò il luogo adatto». Quando D'Artagnan giunse in vista del breve spazio abbandonato che si stendeva ai piedi del monastero, Athos aspettava da 5 minuti soltanto e scoccava mezzogiorno. Era dunque puntuale come la Samaritaine e il più rigido causidico in materia di duelli non avrebbe avuto nulla da ridire. Athos, sempre terribilmente sofferente per la ferita, sebbene la medicazione fosse stata rinnovata dal chirurgo di Monsieur de Tréville, s'era seduto su un paracarro e aspettava l'avversario con quel contegno tranquillo e quell'aria dignitosa che non l'abbandonavano mai. Alla vista di D'Artagnan si alzò e cortesemente gli andò incontro di qualche passo. Questi, dal canto suo, s'avvicinò all'avversario con il cappello in mano, la cui piuma strisciava fino a terra. «Signore», disse Athos, «ho fatto avvertire 2 miei amici che mi serviranno da padrini, ma non sono ancora arrivati. Mi meraviglio che tardino, non è loro abitudine». «Io non ho padrini, signore», rispose D'Artagnan, «perché sono giunto a Parigi soltanto ieri e non conosco ancora nessuno, tranne Monsieur de Tréville, a cui sono stato raccomandato da mio padre, che ha l'onore di essergli un po' amico». Athos rifletté un istante. «Conoscete soltanto Monsieur de Tréville?» chiese. «Sì, signore, conosco solo lui». «Già, allora», continuò Athos parlando un po' tra sé e un po' rivolto a D'Artagnan, «se vi uccido, farò la figura di un mangiabambini». «Non proprio, signore», ribatté D'Artagnan con un inchino non privo di dignità. «Non proprio, già che mi fate l'onore di battervi con una ferita che deve darvi molto fastidio». «Davvero parecchio, e mi avete fatto un male del diavolo, devo dirlo, ma mi servirò della mano sinistra. È mia abitudine in simili circostanze. Non crediate che vi faccia un favore. Tiro ugualmente bene con tutte e due le mani, e anzi voi sarete in svantaggio. Un mancino è assai scomodo per chi non è preparato. Mi dispiace di non avervi detto prima questo particolare». «Davvero, signore, siete d'una cortesia di cui vi sono riconoscentissimo», disse D'Artagnan con un secondo inchino. Rispose Athos con quel suo far da gentiluomo: «Mi confondete, quindi parliamo d'altro, vi prego, se non vi dispiace. Ah, per Diana, se mi avete fatto male, la spalla mi brucia. Se mi permettete», disse D'Artagnan timidamente. «Cosa, signore?» «Ho un unguento miracoloso per le ferite. Un unguento datomi da mia madre, che ho sperimentato su me. Allora? Allora sono certo che in meno di 3 giorni questo unguento vi guarirebbe. E in capo a 3 giorni, una volta guarito, allora, signore, sarebbe sempre per me un grande onore essere il vostro avversario». D'Artagnan pronunciò queste parole con una semplicità che faceva onore alla sua cortesia, senza assolutamente lederne il coraggio. Athos rispose: «Per Dio, signore, ecco una proposta che mi piace. Non che l'accetti, ma sa di gentiluomo lontano 1 miglio. Così parlavano e agivano coi prodi nel tempo di Carlo Magno, che devono essere il modello d'ogni cavaliere. Sfortunatamente non siamo più ai tempi del grande imperatore, siamo ai tempi del cardinale, e di qui a 3 giorni si saprebbe, per quanto il segreto sia ben custodito, si saprebbe, dico, che dobbiamo batterci e ci si opporrebbe al nostro duello. Ma via, quei per di giorno non arrivano». «Se avete fretta, signore», soggiunse D'Artagnan con la stessa semplicità con cui un momento prima gli aveva proposto di rinviare lo scontro di lì a 3 giorni. «Se avete fretta e se vi va di liquidarmi subito, non abbiate scrupolo, vi prego». «Ecco un'altra frase che mi piace», disse Athos con un garbato cenno del capo a D'Artagnan. «Non è di uno scervellato, è certamente di un uomo di cuore. Signore, mi piacciono gli uomini della vostra tempra. E intuisco che se non ci uccideremo a vicenda, Proverò in seguito un vero piacere a conversare con voi. Aspettiamo quei signori, vi prego, ho tempo, e la cosa sarà più corretta. Ah, eccone uno, mi pare. Difatti, in fondo a Rue de Vaugirard, cominciava a spuntare il gigantesco Porthos. «Diamine!» esclamò D'Artagnan. «Il vostro primo padrino è Monsieur Porthos!» «Sì? La cosa vi contraria?» «No, affatto!» «Ed ecco il secondo!» D'Artagnan si voltò nella direzione indicata da Athos e riconobbe Aramis. «Perbacco!» esclamò in tono ancor più stupito di prima. «Il vostro secondo padrino è Monsieur Aramis!» «Ma certo! Non sapete che non ci vedono mai l'uno senza l'altro e che ci chiamano tra i moschettieri e tra le guardie a corte e in città Athos, Porthos e Aramis, o i tre inseparabili? E ora che siete riuniti, signori, esclamò D'Artagnan, permettetemi di farvi le mie scuse. Alla parola scuse, una nube passò sulla fronte di Athos. Un sorriso altezzoso sfiorò le labbra di Porthos e un diniego fu la risposta di Aramis. Disse D'Artagnan rialzando la testa, sulla quale scherzava in quel momento un raggio di sole che gli illuminava i lineamenti fini e arditi. «Voi mi fraintendete, signori? Vi chiedo scusa nel caso in cui non potessi pagare il mio debito a tutti e tre, perché Monsieur Athos ha il diritto di ammazzarmi per primo, il che toglie molto valore al vostro credito, Monsieur Porthos, e rende quasi nullo il vostro, Monsieur Aramis. E ora, signori, ve lo ripeto, scusatemi, ma di questo solo, e in guardia!» Dopo queste parole, con un gesto assai elegante, D'Artagnan trasse la spada. Il sangue gli era salito alla testa e in quel momento avrebbe sguainato la spada contro tutti i moschettieri del regno, come stava facendo contro Athos, Porthos e Aramis. Era mezzogiorno e un quarto. Il sole toccava lo zenith e il luogo scelto come teatro del duello era esposto in pieno al suo ardore. «Si soffoca!» disse Athos, sguainando la spada a sua volta. Ma le due spade avevano appena tintinnato nel toccarsi che una squadra di guardie di sua eminenza, al comando di Monsieur de Jussac, comparve all'angolo del convento. «Le guardie del cardinale!» esclamarono all'unisono Porthos e Aramis. «La spada nel fodero, signori, la spada nel fodero!» Ma era troppo tardi. I due combattenti erano stati veduti in una posa che non lasciava dubbi sulle loro intenzioni. «Oi là!» gridò Jussac, avanzando verso di loro e facendo ai suoi uomini cenno di imitarlo. «Oi là! Moschettieri! Qui ci si batte! E gli editti, che ne facciamo?» «Siete troppo generosi, signori», disse Athos, pieno di rancore, perché Jussac era uno degli aggressori di due giorni prima. «Se noi vedessimo che vi state battendo, ve lo garantisco, ci guarderemmo bene dall'impedirvelo. Lasciateci fare e vi divertirete senza nessun disturbo.